Radio 24 Reportage. Bosnia, la clessidra di pietra, di Christian Elia. Sentiamo ancora oggi che le ferite non sono ancora guarite. Ma la Bosnia deve trovare una strada con la grazia di Dio, abbandonare i rancori, rinunciare alla vendetta, andare avanti insieme. Bill Clinton, presidente degli Stati Uniti, chiudeva con questo auspicio nel 1995, la guerra nell'ex Jugoslavia, che alla fine degli anni 90 si era portata via migliaia di vite. Di tutte le repubbliche nate dalla ex Jugoslavia, solo per la Bosnia-Herzegovina il tempo pare essersi fermato. Una clessidra di pietra, dove si vive un eterno 1995. I muslimana tu jeste attaccina tema. La Bosnia e Erzegovina è prigioniera di quello che è stato deciso per fermare le armi. A quel tempo è stato un bene, ma riconoscere la linea del fronte come uno status finale è stato un grande errore. Da quel momento questo paese non è più andato avanti. Zia di Zarevic è la memoria storica della sua città, Sarajevo, e del suo paese. Viene da una famiglia sempre presente nei momenti chiave della vita della Bosnia. Scrittore e politologo, commenta sulle pagine dello storico quotidiano Oslobodienje il passato e il futuro. Dividere il paese in due entità, la Federazione Croato-Musulmana e la Repubblica Serba, ha fermato il tempo. Ogni decisione, anche la più infima, passa attraverso centinaia di livelli politici, pareri e decisioni. Ognuno ragiona per sé. Qui il problema è che tutti gli altri stati della ex Jugoslavia, secondo un criterio che non condivido, si sono stretti attorno alla bandiera, alla fede religiosa. Qui è impossibile, tutto è mescolato da sempre. Gli odi, alzando steccati lungo la linea del fronte, sono stati resi eterni. Gli è stata data una veste istituzionale e giuridica. Per capire bisogna andare a Kozara, a Srebrenica, a Bratunac. Bisogna andare nei luoghi della memoria per vedere come ognuno in Bosnia e all'estero si prende il suo pezzo di passato e lo usa contro gli altri. Uno di questi luoghi è Kozara, Parco Nazionale. Teatro nel 1942 di una delle battaglie più furiose tra nazisti e partigiani di Tito, una di quelle sulle quali il maresciallo ha edificato l'Unione degli Slavi del Sud. Sa che godine? Oggi che ho svobodlo, sono stata 10 godine a armi. Avevo 15 anni all'epoca della battaglia di Kozara. Partecipai anche alla liberazione di Belgrado e di Zagabria. Alla fine della guerra, ancora 10 anni nell'esercito, prima di dedicarmi a mettere al mondo 5 figli. Un'anziana partigiana ogni anno torna in questi luoghi. Arrivano centinaia di persone, si incanalano in 2 file differenti, come se una mano invisibile li dividesse. Un gruppo si dirige verso un altare. Preti ortodossi celebrano messa, un gruppo si stringe loro attorno. Altri passano senza guardare, su dritti per la scalinata che porta al monumento enorme che segna il memoriale. Non vi fate ingannare, guarda là, prima l'altare non c'era, prima c'era solo una lastra di marmo, non una croce. Non c'è sviluppo quando sono i popoli a governare. Qui sono morti partigiani di tutte le religioni, almeno quelli che credevano. Rubano la memoria. Eravamo solo jugoslavi, niente di più. Sale sul palco uno dei ladri di memoria, Milorad Dodik, leader dei serbi di Bosnia. Questo è un luogo di martirio per i serbi, ora come allora vittime della violenza nazista. Ma nessun tedesco può pensare di poter venire qui e insegnarci a vivere a casa nostra. I serbi non saranno mai più calpestati da nessuno, mai più. Con la stessa voce di tuono di Dodik si incendiano gli altoparlanti e comincia la messa in scena. Attori vestiti da nazisti, attori vestiti da partigiani, attori vestiti da civili. La voce narrante ripercorre le tappe salienti della battaglia, ma la sensazione è che questa narrazione sia prigioniera di coloro che ne vogliono fare un manifesto. A Srebrenica la gente arriva presto. C'è da commemorare, come ogni anno, uno dei più truci massacri della storia europea. In una notte furono 8.000 musulmani trucidati e sepolti nelle fosse comuni. Ogni anno, dopo il laborioso lavoro di identificazione, ne vengono sepolti di nuovi. Quest'anno sono più di 700. Un coro accompagna le bare. Occhiali da sole, faccia da duro, il premier turco Erdogan scolpisce le parole. Değerli kardeşim, nessuno dimenticherà questi martiri. La Turchia, per tutti loro e per tutti voi, sarà sempre un rifugio sicuro. La Bosnia è parte di un'identità che ci accomuna tutti. Non permetteremo mai più a nessuno di tentare di cancellare questa identità dalla faccia della terra. Le bare sono là, l'una accanto all'altra, coperte da un panno verde. Le fosse pure le aspettano. In mezzo i politici, in un angolo le madri, le sorelle e i figli di quei morti. Tutti parlano di loro, nessuno parla con loro. Sfilano tutti, anche quelli che nel 1995 non mossero un dito, come l'ineffabile Bernard Kouchner o il primo ministro olandese. Ancora le parole del premier turco. Saluto la presenza tra noi del presidente serbo Tadic. È la prima volta. Oggi è un giorno nuovo e bisogna apprezzare il suo coraggio. Tadic, imperlato di sudore, se ne sta in un angolo, senza parlare. Alle sue spalle campeggia lo striscione che recita «Serbia, stato, genocida». Le madri di Srebrenica, le donne in nero, non lo vogliono là, ma sono state zittite. Un uomo è bloccato all'ingresso dalla polizia serba perché Srebrenica si trova nella Repubblica nata dal progetto di coloro che hanno tentato di ucciderli, nel miglior spirito folle di Dayton. È Ibran Mustafić. A lui hanno ucciso il padre, è portavoce delle madri. Tadic non entrerà, urla. Spostati, è una vergogna. Lasciatemi stare, dice. Ci hanno braccati come animali nel bosco. Ora loro entrano e noi no. Le contraddizioni si raccontano da sole. Come a Bratunac, poco lontano da Srebrenica, dove sono i serbi a piangere i loro morti. Un altro luogo, un altro striscione. La Serbia non è genocida. Come un botta risposta fra persone che non hanno voglia di sentire. Un altro cimitero, altre tombe. Una donna piange poggiando il capo sulla lapide del figlio. Ritratto in mimetica con una faccia da bambino che lo fa apparire più mascherato per una festa da adolescenti che soldato. Ancora Dodik, ancora un palco. Io sono d'accordo con voi. La Serbia non è un paese genocida. Esiste una grande frustrazione tra i serbi che non vedono riconosciute le proprie vittime una pari dignità. Altra piazza, altro boato. Sembra di guardare queste persone attraverso il vetro di un acquario, prigioniere della loro stessa clessidra di pietra. Uguale per tutti, anche se la ritengono differente. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.